stoma. Benvenuto nell'Eurozona automa. Senza gioia nell'Eurozona. Pensa che l'italiano voleva un contratto chiaro, con tutti i suoi diritti, gli attrezzi a norma, ferie e contributi. Ma dico dove siamo, con te io parlo chiaro. Non voglio questi capricci, dall'alba al tramonto e ti pago in contanti. Ti do una chance. Esattamente la metà, sai cos'è la riconoscenza? Tu che non avevi speranza, perché dove ti poggio ti ritrovo, perché sei il mio capro espiatorio, perché hai un bisogno estremo ed una famiglia nell'altro emisfero. Ti do una chance, ancora grazie che ancora grazie, ti do una chance. Ancora grazie che